Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è il momento più difficile della stagione della Juventus. La flessione di gioco e di risultati, che era iniziata con i primi caldi, tra l'altro fuori stagione perché eravamo a metà febbraio, è continuata anche ieri a Bologna nonostante il ritorno di un discreto freddo. Sicché quel tesoretto accumulato sul Milan in termini sia di punti reali che di punti potenziali sotto forma dei recuperi da disputare, la Juve lo ha dilapidato e domenica, mentre il Milan riceverà il Lecce, la Juventus dovrà giocare a Marassi senza tre quarti di difesa, perché non avrà né Barzagli, né Bonucci, né Chiellini. Il commento di Conte. Non posso rimproverare niente, perché secondo me anche col Chievo la prestazione è una prestazione ai massimi. Anche oggi è stata secondo me un'ottima partita contro una buonissima squadra che ha grande individualità, grande qualità, ben messa in campo, abbiamo lasciato praticamente solamente una ripartenza, un contropiede in divaio. Per il resto penso che la partita l'abbiamo fatta noi lungo e largo. È inevitabile che dispiace non averla vinta. Ribadisco, la strada che porta a vincere non è una strada che ti alzi dall'oggi al domani e vinci. Se succede noi saremo contenti, si tratterà di un vero e proprio miracolo. Eppure qualche scelta comincia davvero a far discutere, quella di Boriello, per esempio, che è rimasto, tra l'altro, in campo per 78 minuti, 7-8, sono a me sono sembrati tanti, insomma, mi è sembrato di tornare indietro di un anno quando a vedere Boriello, quando quel posto lo occupava di tanto in tanto Toni, no? Un altro presunto rinforzo del mercato di gennaio. Partita vibrante, come si dice in questi casi, no? Tesa, con qualche accenno di cattiveria, ma niente rispetto a lo striscione su Pessotto apparso peraltro per pochi secondi nella curva bolognese. Immondizia, proprio immondizia pura, tanto più inaccettabile in quanto quella curva è stata intitolata ad un campione galantuomo quale fu Giacomo Bulgarelli. Lo stesso effetto di quando appaiono striscioni ignobili o si sentono cori su cui sarebbe meglio sorvolare nella curva juventina, che è intitolata a Gaetano Scirea. Forse persino troppo risalto, no, da parte di alcuni giornali ad un episodio come questo, perché ripeto, l'esposizione di questa striscione è durata davvero pochissimi secondi e il fatto di parlarne come sempre implica una scelta. Non so, il Repubblica ci ha dedicato dello spazio, il Corriere della Sera l'ha ignorato, io non so quale sia la scelta più corretta, perché è chiaro che questi poveri decerebrati cercano pubblicità in fondo e quindi temo che stiano facendo il loro gioco a parlarne, ma è anche vero che la gravità di certi messaggi è tale che forse una sottolineatura la merita, non lo so, è un dilemma che non credo personalmente di riuscire a risolvere mai. Francesco da Bari, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo chiederle, io ho visto la partita ieri Bologna-Juventus e ho visto il secondo tempo una Juventus molto aggressiva, diciamo, ha giocato abbastanza bene nel secondo tempo. Poi al 78esimo minuto ho visto che Conte ha sostituito due attaccanti per schierare un centrocampista e una seconda punta quale Quagliarella. Secondo lei Conte ha voluto difendere il pareggio? No, ha voluto mettere uomini freschi, ha voluto dal mio punto di vista giocare in 11, perché con Boriello, questo è un parere molto personale, con Boriello non era accaduto e mi sarei aspettato una sostituzione con Matri, forse, più che con Quagliarella, ma comunque con Matri o con Quagliarella fin dall'inizio del secondo tempo. Non è stata affatto una scelta rinunciataria, tant'è vero che la Juventus ha continuato a provarci, sia pure magari attraverso altre modalità, fino poi all'espulsione di Bonucci, quando invece si è arresa. Il primo tempo è stato però in compenso molto, molto deludente per una squadra che la partita la vuole e la deve vincere. Almeno questa è stata l'impressione, ma mentre nel secondo tempo il temperamento, la voglia di non starci alla sconfitta ha moltiplicato le energie, nel primo tempo non era la Juventus insomma, la Juventus di quest'anno, no? Era una Juventus più molle, più con un ritmo molto più basso, e io credo anche che a quei ritmi lì forse sarebbe davvero il caso di rifare un pensierino a un certo Del Piero, perché fino a quando la Juventus giocava a velocità doppia, Del Piero sarebbe probabilmente stato fuori giri, ma adesso che la condizione è quella che è, io credo che giocando un po' più sotto ritmo, come in certi momenti la Juventus è costretta a fare, ho la sensazione che forse la sua parte la farebbe ancora. E comunque, ripeto, a vedere in campo Boriello e Del Piero inquadrato spesso e sovente nella panchina, qualche stridore è inevitabile. Da Prato, Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Senta, io sono un tifoso juventino, e premettendo che insomma sono piuttosto soddisfatto della stagione, di quanto dimostrato fino a qui e di Conte, non capisco comunque come in queste ultime giornate Conte si ostini a mettere in campo Borriello. Insomma, sembra un giocatore veramente fuori dagli schemi, e lasci in panchina uno come Matri, che ha fatto benissimo, che è sempre stato pericoloso, ha fatto i suoi gol, ha partecipato al gioco, ecco. Quindi non riesco veramente a capire questo atteggiamento quasi autodistruttivo, tra virgolette, del nostro allenatore. E poi un'altra considerazione, visto che insomma alcuni giocatori appaiono fuori forma, hanno perso brillantezza, vedi Marchisio, Pepe, eccetera, non sarebbe, forse non è un po' prematura la bocciatura di giocatori come Krasic, Elia soprattutto, che Secondo me sì, perché io insisto, ho come la sensazione che il mercato di gennaio, anziché rafforzare la Juve, l'abbia destabilizzata, nel senso che ha dato una ricchezza di soluzioni che hanno, non dico finito per confondere le idee, ma quasi, insomma non siamo lontanissimi da lì. Sentirei anche il commento di Cerci da Sponda Fiorentina sul pareggio che il Parma è riuscito a conquistare nel finale, in quest'altro recupero. È stata una partita combattuta, ecco. E noi Parma lottavamo per lo stesso traguardo, quindi alla fine è stato un pareggio tirato. Penso che abbiamo espresso un buon gioco, soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra ha giocato con il 4-3-3, abbiamo creato qualche occasione da gol, e peccato per i tre punti, perché erano fondamentali per noi. La correggo, caro Garanzini, scrive Moreno Giallella. Boriello non è stato in campo tanto, è stato in campo troppo. Rocco da Monza scrive: la difesa di Juve e Genoa se la giocano alla pari domenica in quanto ad assenze, penso sia corretto dirlo. Conte sbaglia sia i cambi, sia i tempi, sia la formazione iniziale. Deve ancora mangiare in minestra, scrive un certo Franchi juventino. Ma insomma, adesso non è che abbia disimparato il mestiere, no? All'improvviso, non è che sbagli tutto, è che più sono le scelte disponibili e più aumentano i margini di errore. Adesso facciamo un intervallo, poi torniamo con una buona e doverosa parentesi internazionale, per poi rientrare sul campionato e per poi ospitare anche Marco Bellinazzo. Oggi siamo contro i tempi morti. Notte di festa a Nicosia, migliaia di persone per strada, caroselli di auto, slogan, cori, non vi dico le radio e le televisioni, insomma, in base a quanto si ricava almeno dalle notizie di agenzia. Sì, certo, non quel tipo di festa, non chissà quale giubilo, ma direi una sottile libidine anche per noi, che non abbiamo dimenticato, come noi, tanti di noi intendo, e alludo per esempio a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, vedo che hai buona memoria. Che non ha dimenticato come si era qualificato il Lione, no? Sì, si era qualificato in maniera un po' sospetta, questa vittoria è molto molto larga, e io penso poi che ogni tanto accada, no, che queste cose si paghino, ed è accaduto. Io credo che, insomma, visto che sostanzialmente non so quanti dei tuoi ascoltatori siano tifosi del Lione o tifosi della Poel, ma in una sfida del genere non si poteva non simpatizzare per la Poel. Cioè, poi io ho una teoria che ho elaborato ieri sera e che, se vuoi, ti illustro sulla inutilità dei calci di rigore, però è stato bello così. così, insomma, adesso abbiamo un quarto di finale con tutti che cercheranno di andare a pescare l'Apoel, con il rischio poi di sottovalutarli tantissimo e magari di avere il sorpresone, che mi sembra eccessivo, perché un conto sugli ottavi, un conto sui quarti, però è una ventata di freschezza, una bella ventata di novità. Non c'è dubbio. Qual è in sintesi questa teoria? No, io li abolirei perché nell'ottica del doppio confronto, giocare 90 minuti, immaginiamo la partita di ieri contro i nostri interessi avrebbe dovuto vedere la qualificazione del Lione, perché il vantaggio che l'Apoel ha avuto, cioè di giocare in casa la seconda, ma soprattutto di avere 30 minuti in più sul proprio terreno, secondo me poteva essere, come dire, sterilizzato dal fatto che se tu in 90 minuti fai lo stesso punteggio dell'andata, poi ok, il vantaggio che ti diamo è ancora 30 minuti a casa tua, però sì, se non riesci a passare, passano gli altri. Io considero i calci di rigore, per carità, una bella scarica di adrenalina, ma è questa scarica di adrenalina tu la paghi spesso con una mezz'ora di noia assoluta, sì. E siccome l'ora è tarda dopo le 23, certo, se per dare una bella ravvivata ai supplementari, io direi questa cosa qua, che se tu giochi in casa ai supplementari devi vincere, se non vinci passano gli altri, perché hai avuto mezz'ora in più sul tuo terreno. Perché no? Lunedì c'è Platini a Milano, magari facendo due chiacchiere. Una bella colazione noi tre e gli illustriamo tutto, no? Poi avevamo anche delle altre cose da dire. Sì, poi certo, certo. Amico tuo, per cui. Potremmo ammollargli sì, questo. Dai, sì, fatti. Senti, invece sull'altro, vabbè, lasciamo stare i partiti di martedì che ormai sono vecchie, che sì, sono, per carità, ormai vecchie anche... Le vecchie però oggi ne parlano, Ibra e Allegri. Sì, ne hanno parlato magari anche con qualche eccesso, direi, sì, verbale. No, ma credo che ne riparleranno oggi, tra l'altro, sì, che è annunciato un incontro tra i due. Vabbè, e questo è uno strascico di... Sì. Di cose. Invece mi è molto piaciuto, anzi al punto che vorrei fartelo sentire, Rudi Völler, l'avrai già sentito ieri sera, sì, tu sì, evidentemente, se lo farei sentire agli ascoltatori, perché dato che lui è il general manager del Leverkusen, è molto spiritoso questo suo intervento dopo la disfatta col Barcellona. Devo prendere tanti aspirini oggi della mia azienda, della nostra azienda Lebaia, dopo una partita così, caro. Complimenti al Barcellona per avere un giocatore di questo livello e anche di avere una grande squadra. No, non solo di Messi, caro. Il Barcellona, abbiamo visto già 3 settimane fa Leverkusen, che è la squadra più forte del mondo. Noi abbiamo fatto, diciamo, un discreto primo tempo, anche se eravamo già 2-0 sotto, però nel secondo tempo eravamo troppo liberi, troppo aperti. Questo è anche un gioco di uomini, dobbiamo essere un po' più duri anche con Messi, di farlo capire che ci sono anche avversari sul campo. In fondo c'è adesso la statistica che neanche un fallo abbiamo fatto contro di lui, chiaro, così non va. È certo che non va, perché massacrarlo no, ma insomma nemmeno prego si accomodi. Che è divertente, vero? No, quando fa, no, molto, molto, quando fa pubblicità alla Bayer. Alla fine io non so la Bayer come sia messa in questo periodo di crisi, però mi sa che anzi questi in un periodo di crisi così potrebbero avere anche incrementato, no? I fatturati per le aspirine. No, non lo so, trovo molto molto onesto e sincero quello che lui ha detto. Certo. Mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto ricordare quando qualche anno fa si ritirò dal basket Karim Abdul-Jabbar, e annunciandolo prima i tifosi di ogni squadra gli facevano una specie di omaggio all'ultima partita che lui avrebbe disputato, e una sera alcuni tifosi gli regalarono un'enorme pastiglia di aspirina, una roba così per testimoniali, insomma, quante loro ne avessero prese per curarsi il mal di testa ogni volta che lo dovevano affrontare. Mi sembra un bel modo di cercare di metabolizzare un 7-1. Insomma. Senti, i 5 gol di Messi lo portano a quota 25 nella fase, dunque lui ha 24 anni, a 25 sì, nella fase eliminazione diretta della Coppa, quindi della Coppa Campioni, non più della Champions. Ibrahimovic, che ha 6 anni in più, che ne ha 30, a fronte di questi 25 ne ha segnati 4. Siamo sempre in lizza, c'è sempre questo duello per il pallone d'oro, secondo te? Sì, beh, direi un testa a testa in queste ore è un vero testa a testa. Ma poi non sappiamo come andrà a finire la cosa, no, io certo, credo che Messi meriti il pallone d'oro, anche se Ibra, e glielo auguriamo, vinca la Champions con il Milan, perché se il premio è a chi è il più forte, Leo Messi è il più forte dell'universo, io non trovo la possibilità di discutere su questa cosa, siamo una delle pochissime cose sulle quali non esista discussione, poi può succedere di tutto, però sinceramente poi ha ricominciato a segnare in una maniera imbarazzante, perché ne ha fatti anche 3 con la nazionale, ne ha fatti 5, insomma, dimostra che quando ha voglia, e lo ha spesso, non c'è possibilità di fermarlo. Fabio, dato che oggi abbiamo tanti ascoltatori che ci chiedono di intervenire, allora io chiuderei con una curiosità, che è questa. Voi di Sky siete abituati a Messi, perché i campionati esteri li trasmettete voi. Ieri sera c'era la partita in chiaro anche, oltre che da voi, in chiaro anche dalla Rai, e mi ha molto colpito lo stupore, no, degli uomini Rai, insomma anche dei commentatori, che evidentemente, non avendolo sott'occhio tutte le settimane, erano veramente sbalorditi da quello che ha fatto, ma in condizioni così facili, tutto sommato. Poi è vero che 5 gol sono 5 gol in Coppa Campioni, ma rispetto al normale, se togli il terzo gol, quel leggendario colpo sotto col destro, no? Col destro, poi in realtà ieri sera Messi, non essendo praticamente marcato, ha fatto cose abbastanza normali. Invece questi erano veramente stupefatti, vuol dire che lo vedono di rado, insomma. Sì, lo vedono di rado, e probabilmente lo vedono di rado anche gli spettatori in questo caso della Rai. Secondo me ci sta, nel senso che ti puoi abituare anche al massimo, quindi quando vedi costantemente delle cose così, fai anche fatica, cioè da un certo punto di vista è quasi da invidiare questo stato, perché probabilmente si sono goduti molto di più uno spettacolo che invece altri un po' più assuefatti si sono ormai abituati ad avere. Noi siamo molto felici di poterlo proporre tutte le settimane, ma soprattutto felici del fatto che lui giochi più o meno sempre così, certo. e quindi fa risultare le partite anche più belle, insomma, è per un'azienda come la mia credo sia importante. Direi proprio di sì. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, buon fine settimana, ciao. Stefano Milano, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso juventino e avevo due cose brevissime da dire. Uno, non ritorno su Borriello perché il discorso è già stato ampiamente affrontato, però mi stupisce in Conte la mancanza di capacità di fare i cambi nel momento giusto, perché come diceva lei, cambiare gli uomini al 77esimo è follia pura in quel momento della partita. Secondo, poi mi sono rifatto gli occhi la sera guardando il Barcellona e al di là di Messi devo dire che un Teio giovane che è entrato agli ottavi di Coppa dei Campioni ha messo 2 palle in rete e devo dire che è una grande soddisfazione, perché noi abbiamo moltissimi giovani forti che invece li mandiamo a emigrare in squadre di Serie B per fargli fare le ossa. Io non so quanti Teglio ci siano in giro. Grazie a lei, non so quanti Teglio ci siano in giro per i nostri vivai, perché questo ho l'impressione che abbia davvero delle marce molto alte e possa essere destinato a una grande carriera. Ieri sera è entrato con la solita disinvoltura che gli ho già visto qualche volta in campionato, il primo pallone che ha toccato se l'è portato avanti sulla sinistra e poi l'ha incapsulato in rete col destro, perché lui è anche un ambidestra, una grande velocità, una grande maturità, già credo sia destinato davvero a una carriera di primissimo livello. Sì, Conte, adesso senza esagerare, io non ho detto che c'era qualcosa di incomprensibile o cosa. Però è vero che 78 minuti di Borriello ieri sono tanti, indipendentemente da modulo, che quando è a disposizione dei Matri e dei Quagliarella. Pasquale, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, senta, io volevo parlare un attimo sugli alberi. Io vivo in un paese e ho fatto per tantissimi anni il dirigente di un settore giovanile. E giustamente in paese che cosa succede? Succede che molte volte non si arriva al quorum, per esempio di una categoria superiore, si cerca di prendere dei ragazzi nella categoria inferiore. E che cosa succede? Succede che a volte questi ragazzi vengono un po' bruciati. Ora la mia domanda è questa: non è che per caso questo nuovo disegnatore abbia avuto tanta fretta di prendere arbitri magari giovani non pronti per questa Serie A e fanno tanti di quegli errori tutte le domeniche che non si può descrivere? Non è solo Juventus-Milan, ma sono tanti altri errori in tante altre partite. Grazie. Grazie a lei. No, io non credo di essere d'accordo, anche se questo è un momento abbastanza difficile davvero per la categoria. Ancora uno, poi facciamo un intervallo per i mercati. Luigi da Napoli, buongiorno. lei grazie per l'opportunità, perché ho perso la frequenza e per cui vi ascolto per telefono. La Juve è l'argomento. Sono molto tifoso, ma questo non mi annebbia e non la vista, per cui riesco ad osservare, spero, con attenzione e con distanza le cose. Ho avuto la possibilità di parlare con delle persone che hanno arbitrato ad alto livello e mi hanno confermato che contro la Juve, dopo il 2006, ci sarà sempre, sempre un attimo di prevenzione, un modello preventivo da adottare in ogni caso. Uno per tutti, Pirlo è arrivato alla Juve, sembra che sia diventato un cascatore. Aspetto per radio, per telefono, a questo punto la sua replica. Penso che possa aspettare un po', Luigi, io andrei a sentire la borsa. L'appuntamento del giovedì con il Sole 24 Ore nella persona di Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Appuntamento a cui tengo in maniera particolare, a costo come oggi di sacrificarlo un po' dal punto di vista della durata, pur di rispettarlo. Appuntamento che oggi dedichiamo ai numeri, a certi numeri da capogiro. Perché? Perché Messi è il quarto calciatore più pagato al mondo, se non ho letto male, dai, insomma, da una ricerca a cosa, mentre Ibrahimovic è il settimo con i suoi 9 milioni di euro, ovviamente netti, perché quando parliamo di questi signori non pensate nemmeno per scherzo. Le tasse le pagano le società. Cioè, che si possa esistere un lordo, ma stiamo piegare a questo adempimento. Ma stiamo scherzando. Allora, illustraci un pochino questo menù. Beh, è bello e interessante parlare oggi di ingaggi, perché proprio qualche giorno fa la FIFA ha reso noto il primo rapporto sul valore del calcio mercato mondiale. Sì. La FIFA da un paio d'anni, lo spiego brevemente, ha un sistema di monitoraggio informatico per cui tutti gli acquisti o le cessioni devono passare attraverso questo enorme database che raccoglie quindi i dati delle operazioni, almeno quelli ufficiali. Sulla base di questi dati è stato redatto un report diffuso, ripeto, qualche giorno fa, da cui emergono tanti aspetti che ci danno, come dire, un'idea più precisa di quello che rappresenta il mondo del calcio ad altissimi livelli. Il calcio mercato mondiale l'anno scorso ha fatto girare 2,2 miliardi di euro, sono stati 11.500 gli affari conclusi, per una media di 1 milione per trattativa. È interessante anche appunto capire come ci sia una grossa sproporzione, no? Anche nella distribuzione degli ingaggi, perché se i 225 calciatori più pagati, abbiamo ricordato Messi al quarto posto, prima di lui ci sono Samuel Eto'o che ha questo ingaggio faraonico in Russia, anzi nel Dagestan, di 20 milioni di euro. Sì, che è una specie di pensione d'oro, no? Evidentemente altri... Altri motivi, oltre a quello puramente sportivo, seguito poi da Cristiano Ronaldo con 12, Rooney con 11,5 e poi Lionel Messi, insomma, questi 11 milioni. I 25 calciatori, ripeto, più pagati si dividono ben 230 milioni di euro, l'anno. Mentre è molto più basso il livello di retribuzione dei calciatori professionisti. Lo stipendio medio anno, infatti, per un calciatore professionista è di circa 185 mila euro. Quindi, questo è un dato mondiale. Questo è un dato mondiale. Sì. Evidentemente, quindi, qua vale la statistica e il motto di Trilus, per cui evidentemente i polli poi sono diversi. Quello che vorrei sottolineare è anche il fatto che soltanto 12 club possono permettersi questi mega ingaggi in Europa, e questi 25 calciatori che incassano 230 milioni costano a questi 12 club quasi 400 milioni di euro all'anno tra ingaggi e tasse. In ambito di crisi mondiale, insomma, sono cifre da capogiro, non per fare il moralista, ma ecco, insomma, ci danno un po' l'idea del fenomeno. Altro aspetto interessante. Sarebbero da capogiro, Marco, anche in periodo di vacche grasse, sinceramente. In periodo di crisi mondiale vuol proprio dire che, cioè, è un'altra conferma in più che il calcio è impazzito, proprio come fenomeno. Sai, Gigi, gli amanti degli sport americani, che so che tu... che non sono tanto di mio genere, certo. Ti potrebbero rispondere che, per esempio, nel football americano, nel basket, gli ingaggi sono molto più alti, il giro sono d'affari ancora più alti, è ancora più alto. È vero. Se questo è il mercato, voglio dire, evidentemente si deve seguire quelli che sono i trend e le spese che le società possono fare. Ma a questo proposito, il dato che mi ha colpito è il fatto che I club pagano ogni anno agli agenti, ai procuratori o in qualunque altro modo li si voglia definire, ben 100 milioni di euro per le trattative, soltanto le società. Poi ci sono ovviamente le percentuali, come per le agenzie immobiliari, per esempio, che danno i calciatori ai propri agenti. Quindi diciamo che sono 100 milioni di euro l'anno più quel, diciamo, 10% medio, grosso modo, che potrebbe anche essere qualcosina in più, che loro poi ricavano dalla trattativa vera e propria. Sì, diciamo che sarebbe bello capire, e nel report questo dato io l'ho cercato ma non l'ho trovato, il numero esatto degli agenti e in particolare dei pochi, il numero c'è, ma dei pochi che si dividono, diciamo, le torte maggiori. E, c'è Iraiola, per capire, per citare quel genere, per citarne uno celebre. L'agente di Tevez, che ha un nome impronunciabile, che faccio fatica, ma insomma è l'iraniano, o come gli altri agenti di importanti calciatori e allenatori, penso anche all'agente di Mourinho, insomma, che riesce a strappare questi lauti contratti. Evidentemente, insomma, c'è qualcosa che non va nel sistema e quello potrebbe essere uno dei problemi. Non a caso la FIFA sono alcuni anni che sta cercando di riformare le regole relative ai procuratori e ad avere un sistema più trasparente, ecco, su queste commissioni. 100 milioni di euro per trattative di calcio mercato a un numero di agenti che sarà molto limitato, perché consideriamo che il 20% di questi 2,2 miliardi di euro si concentra nelle 5 maggiori leghe europee, cioè, il resto si tratta di scambi, diciamo, che avvengono ad altro livello. Queste cifre mostruose che la FIFA ha reso note in questo report sono state rese note dalla FIFA in termini, come dire, asettici oppure in termini critici, cioè con il tentativo, magari appunto l'ultimo a cui facevi cenno adesso, di ridimensionare per esempio il ruolo di qualcuno? No, il report è assolutamente asettico, sì. E traccia un quadro molto chiaro di quelle che sono le dinamiche economiche. Tra l'altro questo sistema, ecco, il sistema di cui ho parlato più, il sistema informatico che permette di tracciare tutti i trasferimenti, nasce per quello sì, con un fine etico, cioè evitare la tratta degli schiavi, cioè dei baby calciatori, in particolare dall'Africa, che venivano e vengono spesso, insomma, portati via dai paesi con la scusa del calcio e poi ridotti in schiavitù, purtroppo è una piaga che conosciamo. Però per evitare questo la FIFA pretende che quando passano attraverso, diciamo, dei circuiti internazionali, quindi il trasferimento tra due federazioni, quel tipo di acquisto sia tracciato e sia monitorato nel proprio sistema. E questa è un'iniziativa, se vogliamo parlare appunto di etica, molto lodevole. Se parliamo poi di etica applicata al mercato dei calciatori, alle somme che girano, evidentemente, insomma, ci sbagliamo di grosso e sarebbe meglio evitare l'errore. Sì, c'è un messaggio firmato Paolo, che immagino sia un liberista assoluto, che scrive: di fatto Messi prende l'1% del fatturato che genera, un terzo di un agente di commercio, fatelo notare. Varrebbe per uno sport individuale questo concetto. Potrebbe valere per quello, insomma. Messi sicuramente contribuisce al fatturato del Barcellona, che in questi anni è cresciuto, in pochi anni, da 200 milioni di euro a oltre 400. Il Barcellona in questi anni è diventata, dietro il Real Madrid, la squadra con il maggior fatturato. Sì. Per regole, ma sarebbe questo un altro discorso e ci porterebbe via troppo tempo, per regole non omogenee con il sistema italiano, tedesco, certo, europeo, che in qualche modo avvantaggiano il club, ma anche per una politica che è sotto gli occhi di tutti molto lungimirante dal punto di vista del vivaio, perché il valore poi patrimoniale, se vogliamo parlare di valore patrimoniale del Barcellona in questo momento, credo che sia inestimabile, potrebbe forse diciamo colmare almeno il 50% di quel giro d'affari di 2 miliardi di cui abbiamo parlato, perché se mettiamo insieme appunto Messi, Iniesta, Xavi, Villa, eccetera, certo. Insomma. Senti, mentre invece Adolfo da Campobasso fa il profeta di sventure e dice: come è successo per l'Euro zona, il sistema collasserà implodendo su se stesso. Io non lo credo, ma certo. No, il rischio c'è, tant'è vero che da qualche anno siamo qui a parlare di fair play finanziario. Platini avrà tanti torti e tanti meriti su molte questioni, almeno su questa ha indicato già da qualche anno chiaramente questo pericolo e ha indicato un rimedio, poi si può essere d'accordo o meno, però perlomeno è un rimedio finanziario ai crack che potrebbero profilarsi, virsi i debiti insomma del calcio europeo. Certo, quanti altri calciatori italiani ci sono tra questi primi 25? Beh, italiani nel senso che giocano in Italia. Pochissimi, abbiamo citato Ibrahimovic, scorro velocemente l'elenco e in pratica c'è Buffon al 20° posto con 6 milioni di euro, Daniele De Rossi che in pratica al 25°, perché ci sono altri 4-5 calciatori che si piazzano, diciamo, dopo Buffon con 5,5 milioni frutto dell'attuale rinnovo, e c'è Snyder dell'Inter insomma che gli fa buona compagnia. Siamo abbastanza dietro, ecco, diciamo, da questo, almeno questo mi sembra un aspetto positivo. Sì. Marco, io credo che per oggi l'appuntamento lo chiudiamo qua, perché mi segnalano molti ascoltatori che premono per intervenire su Stretta Attualità Calcistica. D'altra parte i tuoi fan ti possono seguire su blog e su Twitter, credo, no? Il blog del Sole 24 Ore che si chiama? Sì, Calcio e Business, che è attivo da un paio di settimane, e ci sono tutti questi aggiornamenti, insomma si può commentare, approfondire, sì, questi temi. A condizione che tu non ti rifugi soltanto nel blog, che ci venga a trovare una volta a settimana. Assolutamente. Sai che questa è la condizione. Va bene. Molto bene, grazie. Grazie a te Gigi, a presto. La FIFA e l'UEFA, questo è un intervento di stamane di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ostacolano il calcio. Non si fanno amichevoli nazionali quando c'è di mezzo una competizione come la Champions, che porta successo, crescita, introiti, convinzioni chi la gioca. Si disattende così tutto il lavoro di una società per 10 sciocche partite che non servono a nulla. Questo è l'autorevole intervento di stamane del presidente del Napoli a proposito di calendari. Nasce Novara Channel, la web TV del Novara Calcio, si potrà vedere online in streaming su novarachannel.tv. Sarà possibile seguire live le conferenze stampa, gli allenamenti e i TG con i protagonisti in azzurro. Mi sembra di una tempestività rarissima questa inaugurazione, una settimana che ha portato molto all'immagine del Novara, come molto ha portato all'immagine del Grosseto grazie al suo presidente Camilli, che dopo aver domenica organizzato semi-aggredito prima il presidente del Torino Cairo, poi il suo autista durante e dopo Grosseto Torino, dopo aver lanciato così si ricava dalle sanzioni poi del giudice sportivo, aver lanciato qualcosa personalmente, per carità, all'indirizzo, beh, non si delegano queste prodezze, all'indirizzo di un guardaline, ha revocato l'ospitalità a due giornalisti di Grosseto che sulle loro testate, sui rispettivi giornali, avevano, come dire, raccontato tutti questi fatti accaduti sabato scorso. Il presidente del Grosseto Camilli è un vecchio cliente del Fair Play. Lorenzo da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Dica. Qualche radioascoltatore mi ha già anticipato, allora cambio la mia domanda o insomma il tipo di informazione che vorrei che mi spieghi. Non le sembra che è un po' cambiato il trend per quanto riguarda le azioni così poco chiare, situazioni poco chiare, a parte Milan-Juve, proprio per quanto riguarda le squadre a strisce verticali, bianco-nere, rosso-nere, nero-azzurre, come diceva lei un tempo? Grazie. Beh, sì, direi che rispetto agli anni bui del calcio italiano, oggi c'è l'errore che va e viene, cioè c'è l'errore da una parte e dall'altra, capita anche ogni tanto che si sbagli a vantaggio, certo non a maggioranza, ma capita anche che si sbagli a vantaggio, comunque non a danno delle piccole, insomma, cosa che una volta era molto, molto, ma molto più improbabile che accadesse. Poi avevamo anche scoperto il perché, avevamo scoperto che c'era un sistema, una cupola e quant'altro che funzionava, che manovrava in questo senso. Oggi mi pare che il fenomeno sia nettamente ridimensionato e nella fallibilità umana, dunque anche arbitrale, che continua purtroppo ogni tanto a fare dei guasti, almeno c'è la sensazione che l'errore di oggi sia davvero un errore, non vada catalogato invece sotto altre voci. Mario, Roma, buongiorno. Buongiorno Garanzini a tutti gli ascoltatori. Io diciamo volevo tornare sul discorso di qualche giorno fa dei cori razzisti della Lazio. Sì. Lo metto che io non sono un tifoso sfegatato, però diciamo fin da piccolo, ero di mio papà, seguo la Lazio. E sinceramente come tifoso sono molto più deluso da un atteggiamento come quello di Giulia Lazio, nulla hanno fatto nei confronti dei cori, che rispetto a un gioco deludente, una partita non vinta. Lei qualche giorno fa commentava l'episodio dicendo che non si sono voluti mettere contro il pubblico che diciamo stava operando questo atteggiamento sconveniente. Io diciamo forse mi illudo a pensare che le persone scontente dell'atteggiamento della Lazio sono molto di più di quelle che invece sono contente che i giocatori hanno lasciato correre. Lei non trova? Io me l'auguro, certamente me l'auguro, anzi ne sono anche abbastanza convinto. Io non... penso però che ci sia il fastidio crescente, forse anche la gravità, da parte del tifoso, dell'appassionato civile, di dover delegare la rappresentatività del proprio tifo, del tifo di quella, per quella bandiera, per quella squadra, per quello che vogliamo, a questa gente, cioè di essere così mal rappresentati. E lei e il suo intervento ha detto proprio, no? mi pare di capire. Penso che diciamo la squadra si sarebbe screditata nei confronti del pubblico se tutti insieme avessimo detto ragazzi state zitti che così non va bene. Non lo so, forse sono un idealista, non lo so. No, può essere, anzi è probabile, ma non è ancora reato essere idealisti e se anche questa, temo, in una società come quella di oggi è una battaglia persa, ma spesso le battaglie perse sono le più nobili, almeno ci si consola così. Giuseppe ha chiamato da Salerno, buongiorno. Salve dottor Garanzini, io non ho seguito bene la trasmissione, non so se avete parlato dello striscione esibito dai tifosi. Sì, sì, certo, ne abbiamo parlato, sì. Io un aggettivo solo, indegno, indecente. Io sono campano, ricordo lo striscione dei napoletani all'indirizzo dei veronesi negli anni '80. Giulietta è na, puntini puntini. Ci vuole ironia, ci vuole stile. Altrimenti veramente si arriva a dei livelli di indecenza sociale oltre che sportiva. Poi volevo fare un'altra considerazione sul Barcellona visto ieri. Lei che segue è un esperto storico del calcio degli anni 70, non so se vede delle analogie, trova delle analogie tra l'Ajax di Cruyff e il Barcellona di questi ultimi due anni. No, sinceramente no, nel senso che questa è un'evoluzione. È un'evoluzione di grande raffinatezza. Qui non c'è la forza fisica che l'Ajax aveva e ci sono piedi molto, ma molto migliori, molto più morbidi. Non che l'Ajax non avesse piedi, capiamoci. Però l'Ajax aveva un solo grande campione da un punto di vista tecnico, che era Cruyff, e poi c'erano alcuni altri buoni giocatori. Là era... Questo mi perdoni, sa, ma in un minuto o due davvero non è possibile illustrare un paragone tra le due più grandi squadre a livello di club degli ultimi 30 anni, le due che hanno davvero innovato negli ultimi 40 anni. Anche perché mi stavo dimenticando l'8 marzo, niente meno che l'8 marzo, nella versione ovviamente di Nicola Filippone. Sembra ieri. 8 marzo 1964. Il Milan riparte da Nils Liedholm, per il quale inizia al Cibali di Catania una carriera da allenatore destinata a durare 33 anni. Il direttore tecnico Gipo Viani ha scelto lo svedese, che da calciatore era stato un simbolo del Milan degli anni 50, per sostituire Carniglia, esonerato dopo un KO interno con il Bologna. E Liedholm parte bene, i rossoneri non entusiasmano, ma riescono a battere il Catania per 1-0. Decide al 62esimo un cross di Rivera per Altafini. Il brasiliano manca l'impatto col pallone, ma il suo movimento mette fuori causa il portiere dei siciliani Vavassori. A fine stagione, il primo Milan di Liedholm otterrà un brillante terzo posto, alle spalle di Bologna e Inter. Roberto ha chiamato da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, dica. Faccio una premessa che probabilmente avete già parlato di queste cose qui, perché ho ascoltato la vostra commissione solamente 10 minuti oggi. Io l'ho visto il Barcellona e ci si chiede sempre se Messi abbia raggiunto o meno Maradona, altro che se l'ha raggiunto, questo marziano del pallone, a questo punto cosa deve fare per raggiungere Maradona? L'ha sorpassato, Mi dispiace per i tifosi napoletani. Ma... No, ma perché? Non credo che i tifosi napoletani se ne avranno a male. Insomma, io credo anch'io questo, lo dico con molto rimpianto e con molta nostalgia di Maradona, ma considerando anche che Messi ha 24 anni, ho l'impressione che insomma, non abbia più solo fuori la freccia, ho l'impressione che stia per guardare nel retrovisore, insomma, no? Ma simpaticamente, sportivamente. A questo proposito, sentiamo cosa ha detto Guardiola ieri. Questo non è un lavoro dell'allenatore, questo se un giocatore ce l'ha o non ce l'ha, e nel senso che gli piace o non gli piace giocare calcio. Io ho visto tanti giocatori che le piace giocare al calcio e tanti giocatori che si servono la sua vita per, e fanno il suo mestiere. Questo non è un mestiere per suo, è un giocatore più amateur che conosco, perché lui gli piace giocare con pioggia, con neve, con sole, con freddo, con alte temperature, bassa temperatura, campo in condizione perfetta, campo in condizioni brutte. Lui compete con se stesso per dimostrare ogni partita che posso fare meglio e che può aiutarti. Questo stupendo ritratto di Leo Messi risale ieri sera dopo i 5 gol ed è griffato Guardiola. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanini in redazione e buon pomeriggio.